B. Ascolta e controlla. 1. Salve a tutti. Oggi vorrei fare una lezione su Giacomo Leopardi e discutere con voi delle sue poesie. 2. A Franco piacerebbe tanto fare un viaggio all'estero insieme agli amici. 3. Mi piacciono tutti i tipi di musica, ma ho più a cuore la musica jazz degli anni 80. 4. Rimarremmo volentieri qui per un'altra ora, ma il treno partirà tra 10 minuti e dobbiamo andare di corsa alla stazione. 5. Marcella avrebbe voluto mettere tutto in ordine prima di uscire, ma aveva troppe cose da fare. 6. In questo momento mangerei volentieri una bistecca alla fiorentina con patatine fritte, ma purtroppo sono a dieta. 7. Prenderei la patente di guida anche subito, ma non ho tempo di frequentare un corso di guida. 8. Daniela ha spiegato alle sue amiche che sarebbe partita per gli Stati Uniti dopo pochi giorni. 9. Potrei chiederti di farmi un piacere? Ma certo, sono a tua disposizione e sono pronto a fare qualsiasi cosa per te. 10. Per cortesia, potrei avere un boccale di birra e un panino con il prosciutto?